Zigini mo vista gon che sezza meza. Si non ti vragi custu sonu vi che spese spesa. Sabo gesti vulesa, minanta farmacista. A pupa tu nu batu, faccio scelti rappa vrisca. Con cioccolati bianco e con pepi produttori. Io su vi che un impegno rispetta essa tradizioni. Mattoni va un mattoni, de gioca cosa seria. Si pesa da sa voce e si gallenta sa atmosfera. A sa maniera sarda, tosta su che cimento. Ci vuole allenamento, rappa su gentu vocentu. Sa gente è sempre custu, non è pregunge vantu. Candu sa gente intende sa ti annoga non mi spantu. Cantu, tempo su verdu con pensamento su tutto gusto sfuedo su bolause quattro bento su meglio se si intesi che si legge a compagnia sta gente mia e gente merda in sintonia reggega porta firma zicchi nicca muoi bene in custa gricca cumbi da gassa buche troppo zicca tu bicca non conviene gando non c'è sti sudanti si appala non c'è nuda manco innanti du pazzo vuoi t'asciuga adesso sono se un regista microfono in sa mano sono asciti rap a visca cindevo sa apprendista su dottore sta maestra sa gricca e zicchi nicca somminè su farmacista du pazzo vuoi t'asciuga adesso sono se un regista microfono in ma non sono asciti rap a visca cindevo s'apprendista su dottore sta maestra sa gricca e zicchinica somminè su farmacista se su non più su di atteso s'accostaso a tretto in noi fai un penny gantu bali su dialetto non pezza su barroso dimostrasi rispetto prima d'entrenza domu bogadindi su bonetto ti raggi di seppetto gandu sa gente intendi incominza muovi manus e da cabba da s'attendi comprendi gabbatendi sa vesta viga colori e chi ne viene avanti mosti mesa si fa onori e in sa su nevori callenta su motori su sono originali e custa e tasta su sabori. Mo vista con casighi gustu tempo incantatori non pezza sa sociali e ghetta d'inci su montoni poni a menti non sia sta prepotenti non c'è lo guvo ghini pensa scetti accanto bendi non ti da bighi mali diso scetti con silendi nendi canno su dubbio su vostro spazio dessa gente voi t'annasci dessa brenti passavo su giroveddu arribara sa bucca e vessi in fora un uvueddu accuzzau che gotteddu pistaghi un matteddu ziniga sta rasada sa provincia sti gasteddu du pazzo vuoi t'asciuga adesso sono se un regista microfono in sa mano sono asciti rap a visca cindevo s'apprendista su dottore sta maestra sa gricca e zicchinica somminè su farmacista du pazzo vuoi t'asciuga adesso sono se un regista microfono in sa mano sono asciti rap a visca cindevo s'apprendista su dottore sta maestra sa gricca e zicchinica somminè su farmacista in uscetti vi ciocchedu che andacu incumenzau su nomini via un altro e deo crescendi se o cambiau in tutto gusto tempo se de tempo un de passau cantotta samo i vigo e mollu dotta pu pensau una dimmi se o prima pensa tutto su via punau a tutto su tempo verde a tutto su via pu imparau sa de pu scramentau se arriba sa conclusioni o vai cosa sa bene, c'ho l'impegno con passioni. Sa giusta vibrazione, nasci des intelligenza. De ci crede, du vai scetti, si c'è gana e pazienza. Si do tu gusta manca e me lo manco incumenzai. Do dopo comprendo che andapo intendo su gora bruciai. A naga do tu gusto, vi accetti uno gioco. A trasse cancaro prima si inceppa pa una rogu. A paga pago e l'umpio in ogni avati in ogni allogo. Io non posso bru pensare debbi visenze gusto vogo. Insando bogu, sa grinta, pochini me di grettiu. Pochini sa si usi, si che chi ne attenti usetti. Pochini a di combattiu, chi ne se sempre sbattiu. Chi ne ha rappresentato un totu su via di vacu po cioccolati e peppi po gente merda crew po gioca a ganna sana e cindi vunti a trusugu e po do tu gusta gente che deu pazzo rappa visca ziniga sterra sarda di un mizzerio farmacista du pazzo vuoi t'asciuga adesso sono se un regista microfono in sa mano sono asciti rappa visca cindevo s'apprendista su dottore sta maestra sa gricca e zicchinica somminè su farmacista du pazzo vuoi t'asciuga adesso sono se un regista microfono in sa mano sono asciti rappa visca cindevo s'apprendista su dottore sta maestra sa gricca e zicchinica somminè su farmacista.